vorrei sapere se vi rendete conto del linguaggio che voi adoperate. Sì, e non ce ne frega un cazzo, Camillo. Sì, non ce ne frega. Tu pensi che i tuoi colleghi non utilizzino solamente il linguaggio formale, quello da ufficio, eccetera, eccetera? No, escono fuori, scoreggiano, ruttano, scopano. Probabilmente sarà anche laureato lei, si dovrebbe vergognare, guardi. Ma ti devi vergognare tu e le persone. Io tanto non gli ho dato del tu, lo sto dando del lei. Comunque lei, ma non me ne frega un cazzo di quello che mi dai. Io ti do del tu, io ti do del tu come do del ti a tu. Un linguaggio così scurrile. E quale sarebbe il linguaggio scurrile? Non ho capito. Quale sarebbe? Che dite, potreste evitarvele perché non c'è nessun motivo. E allora spegni la radio, non ci rompere il cazzo, no? Molto semplice, cioè, allora, spegni la radio, non ci rompi i coglioni. Io ti lo vedi? Lo vedi? Tu sei tuo figlio della mignotta. Ma scusa, non bisogna dire le parole. Richiamati. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Gioia. Buonasera Giuseppe, buonasera parente, buonasera a tutti signora. Gli ascoltatori. Buonasera, grande signora, Alessia, buonasera, puoi dire di quanti centimetri è il tuo uccello subito? Ma, subito per cominciare, lo amica mia. Già subito, subito, subito. No, no, no, no, dimmi qua. Quanto è? Gli uomini che ascoltano poi sono invidiosi, se lo dico. Miau. Ma voglio lanciare un invito ad acquistare, soprattutto a leggere, il libro del mio amico Giuseppe Cruciani. Eccolo qua, Nudi, il sesso degli italiani. Grazie a tutti, pubblicità, ci vediamo dopo. Saluto il pubblico da casa, scusate, vi ho fatto vedere anche il di dietro di Cruciani. Pronto, buonasera, signor Cruciani? Sì, sì, sono allora, io. Senta, io l'ammiro tantissimo ogni sera, cioè ogni giovedì, quando è invitato dal Dubbio, sì. Dritto e rovescio. Del debito, non del Dubbio. Del Dubbio, Dubbio. Sì, ok, va bene. Allora, lei è un uomo che ha nessun peli sulla lingua, che ha nessun peli sulla lingua. No, okay? I peli su, ce l'ho nel culo se vuoi, i peli. Beh, no, no, sto dicendo che lei parla delle cose vere. Perché non si parla mai delle famiglie Rothschild, Rockefeller, che controllano il mondo finanziario popolare? E a lei piace Cruciani, giusto? E guarda Rete 4! Tutti questi che ti applaudono però sono degli svalvolati, si può dire? Sì. Mia, quante te ne devo dire oggi? Quante te ne devo dire oggi? Quante te ne dico? In diretta da Roma, David Parenzo, applausi, applausi. Buonasera, buonasera cari amici, il bollettino di oggi è 37.242 nuovi casi, con tamponi in calo, i morti sono 699. Mamma mia, menagramo. Ma di un menagramo maledetto. C'è da aggiungere un'ultima notizia, Locatelli e Sileri, Crisanti sbaglia, il vaccino sarà subito giù, sicuro. Giù, da giù, Roma. Giù, giù. Allora ragazzi, ditemi se non avevo ragione ancora per non so per quanti giorni di fila. Cioè una settimana in cui ho quasi sempre ragione. È pazzesca questa cosa qua, su diversi temi. Allora, che ti ho detto l'altro giorno? Io non mi farei il vaccino subito così a scatola chiusa. Io non me lo farei a scatola chiusa. Cosa vuol dire il scatola chiusa? Così, il primo vaccino che arriva, non me lo farei. Cosa vuol dire a scatola chiusa? Non è che arriva non il primo vaccino. Non me lo farei, ma ho dei dubbi. Stai dando informazioni sbagliate. Non è il primo vaccino che arriva. Il signor Crisanti, il signor Crisanti, cioè dire il re del lockdown, uno che vorrebbe sempre le chiusure, chiusure, no, chiusure, chiusure, chiusure. Un sì, uomo è molto legittimo, se è legittimo. Il vaccino ha avuto la certificazione uno dell'EMA dei tuoi idoli, e dell'AIFA, uno io me lo faccio. E allora hai detto, allora devi dire, ha detto una cazzata. Se il ha vaccino, detto, no, ma infatti dire, ha spiegato ha detto meglio, una ha spiegato no, no, meglio, no, no. Ha spiegato meglio. Ma no, no. Se il vaccino giù, parole di Crisanti. Una risposta, diciamo, secca. Quanto ci vuole per produrre un vaccino per Covid? Questo periodo è stato abbreviato drammaticamente. Certo, perché le fasi 1, 2, 3? Secca gliela faccio, non ho finito la domanda. Lei se lo farebbe il vaccino primo vaccino che arriva a gennaio? Senza dati no. Perché voglio essere rassicurato che sia un vaccino che è stato testato e che soddisfi tutti i criteri di sicurezza e efficacia. Io penso che come cittadino ne ho diritto e non sono disposto a accettare scorciatoie. Questi vaccini sono stati sviluppati e saltando la sequenza fase 1, fase 2, fase 3, perché chiaramente ci hanno avuto fondi statali e quindi si sono potuti permettere di fare fase 1, fase 2, fase 3, perché chiaramente i rischi erano a carico di chi aveva dato i quattrini. Facendo fase 1, fase 2, fase 3 in parallelo, di fatto uno si porta appresso tutti i problemi delle varie fasi. Quindi poi è vero si arriva prima, però poi c'è bisogno di tutto un processo di revisione dietro che non è molto facile da fare. Allora, al di là delle questioni tecniche, ragazzi, ma che cos'è capezzone 1 2 3 fase 1 2 3, ma non è così. Devi stare zitto un attimo, devi stare zitto e basta. Vai giù, mi mettete giù Parenzo, per favore, che mi ha rotto il cazzo già oggi. Allora, la cosa evidente è questa, che mentre c'è uno che dice come Burioni evviva, sta per arrivare il vaccino che ci risolverà la vita, e noi lo speriamo, il vaccino che risolverà tutto, ammazzerà questo virus, un altro virologo molto importante, credo anche consulente del governo se non sbaglio, il signor Crisanti, dice che questi vaccini annunciati a dicembre, a gennaio, Pfizer e altri ancora, non si devono fare, secondo lui. Voi avete capito la gravità di queste cose? No. Ha detto che non si fida vuole di quelli di gennaio perché hanno saltato delle fasi. Non dire cazzate. Questo ha detto pubblicamente, lo ha detto. Non si fida, e se non si fida Crisanti, poi dice che il 35% degli italiani sono scettici. No, grazie al cazzo. Così. Crisanti dice pubblicamente: hanno saltato delle fasi. Le aziende lo ha detto. Sono obbligati a portare i loro dati all'EMA, al Food and Drug Administration negli Stati Uniti e all'AIFA. Prima cosa. Seconda cosa molto importante. Secondo caso molto importante. Quello di Morra. Ora ragazzi, questa qua è una trasmissione super scorretta. C'è una trasmissione in cui se ne dicono di tutti i colori. Lo sapete, no? Cioè, usiamo parole correnti, usiamo parole da bar, spesso ci insultiamo, ci diffamiamo tra di noi, no? Oggi Gottardo non c'è, ci siamo infamati a lungo. Parenzo, Gottardo, io contro Parenzo. Gottardo, cioè, conduttori, Gottardo, non c'è nessuna differenza, ma glielo dirò magari lunedì, martedì, sì, quando c'è. Sì, Gottardo, sì. Però dico solo questo: non ha nessuna non è tanto distante da un rom. Come poi da un rom? Spiegherò che c'è per un rom. Perché i rom fanno queste economie di riciclo, no? Sì, spesso fanno i rigattieri, vanno a vedere, no? Nelle case o alle volte anche nella spazzatura. Spesso, rubano. Nella spazzatura vanno, no, sì. Riprendono delle cose della spazzatura e poi li rivendono e li sistemano. Una nuova. Lo stesso sostanzialmente fa Gottardo, che dici, va in un grande albergo, con gli alberghi. Esatto, è una specie, solo che ha più riprovazione sociale, solo che rispetto ai rom c'è una riprovazione sociale assoluta, no? Rubano, perché rubano, quello non ruba. Fino rispetto a Gottardo no, invece non si capisce perché tu anche dici, se uno sta straccione, arrivando, tu dici che è uno straccione. Uno straccione travestito da sultano del Bahrain, mentre tu sei un miliardario travestito da straccione. Questa è la cosa. Torniamo cosa. A Morra, poi glielo comunque dirai, glielo spiegheremo in diretta, che non ha grande differenza da un rom sostanzialmente. Allora, Morra, ora ragazzi, ripeto, questa trasmissione si dice di tutto, però sinceramente io non l'ho capita questa cosa. Perché il signor Morra, che è presidente della commissione antimafia, di cui fondamentalmente non frega un cazzo a nessuno dal ruolo che perché ha, no, la commissione antimafia è importante, ma, no, era quella fatto. Che aveva segnalato il presidente del consiglio regionale del Lazio, la commissione antimafia secondo me quasi non dovrebbe esistere nel mio mondo ideale, comunque il signor Morra, che è presidente di questa istituzione, dice sostanzialmente che chi ha votato la Santelli e sapeva che era, a parte che non si sapeva un cazzo, che era malata di cancro, ha sbagliato, perché adesso, questo ho capito, perché adesso c'è un vuoto di potere, diciamo, c'è successo un casino in Calabria, cioè tu non puoi votare qualcuno che sai che poi morirà, a parte che chi cazzo l'ha detto, che doveva morire, cioè lo sapeva lui? Lo sapeva Morra? Ma chi lo sapeva? Carità, io non sapevo manco che era malata di cancro, se non lo sapevo io non lo sapevo nemmeno moltissimi calabresi, più o meno mi occupo di queste cose, sentiamo Morra. Sarò politicamente scorretto. La presidente della regione Calabria era cosa nota a tutti. fosse una grave malata oncologica. Non è vero. Umanamente ho sempre rispettato la defunta Iole Santelli, ma politicamente c'era un abisso. Se però ai calabresi questo è piaciuto, questa è la democrazia, ognuno deve essere responsabile delle scelte che pone in essere. Hai sbagliato? Nessuno ad un certo momento ti deve aiutare perché sei grande e grosso. Cioè, io non ho capito una cosa, qual è il legame che c'è tra una persona, cioè perché i calabresi nessuno avrebbero sbagliato a votare la Santelli in quanto malato oncologico? Uno può dire hai sbagliato a votare uno accusato, certo, poi condannato per mafia, d'accordo, e il ragionamento ha detto una cosa stare. Come dici tu, ha detto una stronzata, no, ma non dire quella. Io non ho mai detto nulla sui malati di cancro, non dire puttanate, un malato di cancro può tranquillamente fare il presidente di regione, spendere tutto dicendo di un'altra cosa, che quello che ma gli rimane, ovvio, magari per fare il presidente. Ha detto una cosa simile alla tua. E chi lo vota non è un perché, coglione. No, ho detto una cosa simile alla tua, ti spiego perché. Perché introducendo la stronzata ha detto sarò politicamente scorretto. Come dici tu? Tu ogni volta quando introduci una stronzata, dici sempre sarò politicamente scorretto. Non lo dico quasi mai. Tipico di chi dice stronzate, quello di dire sarò politicamente scorretto. Cioè introducendo. E tu quasi che tutti gli altri siano politicamente corretti. Mi hai quasi dato. Tu adesso, fuori dal Londra, gli è quasi da dire ragione. Adesso sveliamo tutto. Prima ha detto beh, però sai che non ha tutti i torti. No, morra. Io ho detto un'altra cosa, te lo svelo, ti dico no, cosa dopo, ho detto. Dopo, ha detto una stronzata dopo, via dopo, galattica. Dopo, Lorenzo, oggi in Lombardia meno 32 persone ricoverate. Vorrei che lo dicessi. Come fai quotidianamente col tuo bollettino di guerra a inizio trasmissione? Ho trovato il lavoro per te, Parenzo. Devi fare il badante di Esther di Milano. La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Parenzo, sei un coglione! La mortalità del vaiolo è del 30%! Qua con il Covid siamo allo 005! Non dire cazzate! Sei proprio un coglione! Non puoi assimilare il Covid al vaiolo, coglione! Ragazzi, ancora Morra, prima che mi annoio definitivamente su Morra. Allora, che è il presidente della Commissione Antimafia, esponente dei 5 Stelle, che ha detto, ripeto, che la Santelli era cosa nota a tutti, ha che era una malata oncologica. Stupidaggine. E dunque i calabresi si sono presi quelli che hanno scelto, cioè una che è destinata a morire, penso che quello intendesse. Poi se l'è presa naturalmente con quel presidente del Consiglio regionale che è stato arrestato, ma è stato arrestato. È stato arrestato, Tallini. Non è stato condannato questo Tallini, non è stato condannato per varie cose, concorso esterno e altre cose, non è stato condannato in via definitiva, dico io, eh. Tallini è stato il più votato nel collegio di Catanzaro e fra i più votati, se non il più votato, in tutta la Calabria. La dimostrazione che ogni popolo ha la classe politica che si merita. Il suo è un rimprovero. E per caso sono complimenti. Allora, lui si giustifica, sulla Santelli non dice un cazzo, dice semplicemente che conferma tutto quello che dice. Poi sentite come chiude, oggi ha fatto una lunga diretta su Facebook e chiude in questo modo a proposito di chi lo attacca. Senti, ci dice chi lo attacca del centrodestra, senti. Ma se queste mie parole debbono servire per riverginare l'imene di qualcuno che se un pochino, diciamo così, trastullato nel tempo, beh, quello non è un problema mio, è un problema di altri. Cioè, se queste mie parole servono a rivergine l'imene di qualcuno che si, non si riferiva alla Santelli, ovviamente, che si è trastullato nel tempo, cioè però significa sostanzialmente quelli che si sono trastullati con la sanità rubando. Cioè, adesso lo attaccano. Adesso, sì, ma il punto fondamentale non è le cose che dice su Tallini, quello del presidente del Consiglio regionale. La cosa fondamentale è la cosa che dice sulla Santelli. Certo, cioè, ma che è malata, eletta i calabresi responsabili delle scelte fatte. Cioè, come se i calabresi fossero responsabili di avere eletto una malata di cancro. E questa è la follia. È una follia assoluta. Cioè, come se i malati non potessero fare politica. Mi fate una cazzata. Mi pare che tutti dal PD, anche i 5 Stelle stessi, gli hanno detto che è una cazzata. Ma io invece ti ho detto un'altra cosa prima di andare in onda. Ti ho detto, guarda, che degli Stati Uniti, quando viene eletto il presidente, lo devi dire. Cioè, secondo me la Santelli avrebbe dovuto dire di essere malata. No, dicendo, guarda, avrebbe dovuto dire di essere malata. Io non lo credo. E allora perché dici per fare l'esempio degli Stati Uniti? Per farti l'esempio di una democrazia che fa della trasparenza l'elemento, come dire, fondamentale, e addirittura negli Stati Uniti vengono resi noti, io credo sbagliando, addirittura gli esami del sangue del presidente, cioè si sa anche la cartella clinica. Ma se me l'hai detto, che secondo me c'è ragione. Mi è venuto in alcun modo, mi è venuto in mente facendo un leak dicendo guarda come la democrazia americana arriva addirittura a invadere la privacy. Io non credo che sia corretto, ad esempio, per cioè porro, non c'entra nulla. Porro su Morra, vabbè, scontato. Porro su Morra abbastanza scontato, vai. E poi succede una cosa, che il presidente della commissione antimafia, Morra, il presidente della commissione antimafia, un grillino che mi fa orrore, perché io spero che lui chieda scusa ai calabresi. Io dico, ma questi parlano, questi è il presidente della commissione antimafia, questo è un vostro rappresentante, questo va in giro e dice che i calabresi hanno votato una persona, cioè sputa su un cadavere. Offende una regione, offende la memoria della Iola Santelli e offende coloro che lo stanno governando oggi. Non riuscirei mai a insultare un morto e chi ha votato il morto. Cioè, questo ha detto il presidente della commissione antimafia e noi zitti e muti, e l'unico che parla di frasi sciocche è il giornale in un sottotitolo. Morra, vergognati! Ma lo dico, vergognati! Questa è morta e tu pensi di trattare così i calabresi che hanno votato una morta. Cioè, dice che i calabresi sarebbero colpevoli di aver votato una donna sapendo che aveva il cancro. E qui stiamo a fare le leggi LGBT, il rispetto degli animali, il trattamento delle donne, la correttezza tra opposizione e maggioranza, Mattarella che fa i suoi discorsi, il sorriso di Augias, non ci abbracciamo al cenone, e il presidente della commissione antimafia dice che una è morta di cancro e lo sapevano i loro elettori. Questa è la civiltà. Tutto insieme. Una volta era un liberale, sapeva distinguere le cose, ma tutto insieme. Ancora De Luca contro De Magistris, solo un imbecille che litiga da solo per farsi pubblicità. Questa è la situazione di chi governa la Campania, zona rossa. Vorrei che fosse chiaro a tutti che qui in Campania non c'è nessuno che stia litigando, che la regione è tutta concentrata sul lavoro e che c'è soltanto a Napoli un imbecille che litiga da solo o che cerca di fare sciacallaggio o aggressioni per farsi pubblicità, per nascondere la propria nullità. Pino da Frosinone, iniziamo le danze con Pino da Frosinone. Pino da Frosinone, vai Pino, dimmi. Buonasera a tutti, volevo solamente dire, spezzare una lancia a favore, non vorrei essere politicamente scorretto, così Parenzo è contento. No, basta, non iniziamo così, per carità, se no iniziamo come... Vai, allora... Niente, Azzurra Barbuto, secondo me, ha avuto le palle di dire le cose come stanno, cioè? Perché io la penso assolutamente in quel modo, cioè, sta signora che ha messo il figlio sul gommone, che poi sto bambino, pace all'anima sua, è morto, però fa parte del rischio, fa parte del gioco, quando uno fa una cosa illegale, si sa che ci sono dei rischi. Signor Pino da Frosino, signor Pino, che fa, sì, l'autista, lei, il camionista, Pino? Sì, faccio il camionista. Camionista, sì, un po' fascista pure lei, no? Sì, vabbè, abbastanza, a me basta questo, non ho bisogno di fare dei commenti. Però, cioè, che c'entra questo? Non aiuta, aiuta a inquadrare un signore, non perché sia camionista, aiuta a inquadrare una persona che si dichiara fascista, che dice che gli piace il Duce, che gli piace la Barbuto, e queste tre cose, diciamo, insieme. E vanno rispettate le regole. E queste tre cose insieme già per me fanno una prova. Queste tre. Onore. Disciplina, che non si dice, può venire sulle coste italiane. Disciplina, disciplina cosa? Quale disciplina? Mettiti la cintura e non passare col rosso, coglione. Ma che ne sai? Ma culo, ma che ne sai che passa con loro? Sicuro che passa con rosso questo. Questo è ti sorpassa da destra. Questo qua è il classico camionista che ti sorpassa da destra, peraltro. Ma no. Effettivamente siete pure in truffo, sì, sto giro. Ti sorpassa da destra. Fermo, io quando vedo quelli così, Pino, gli faccio il dito medio. Lo vuoi risentire così. Dopo, Pino? No, lo vuoi risentire o no? No, invece te lo faccio risentire. In alcun modo. La Zanzara. Guaggiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fare l'800240024 oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Comunque io colleghi, faccio l'autista, ma colleghi come quel cretino, Silvio come cazzo si chiama lui, non ne ho, non ne voglio, e quello lì lanciafiamme, non gli serve, perché oramai il cervello gli si è bruciato, il cervello gli si è bruciato a quel cretino, e poi che non riesce a parlare per lui e che parla per gli altri, non dirlo più che sei autista, cretino che ci fai fare a tutti brutta figura, testa di cazzo! Prima di tornare da Pino da Frosinone, caro Parenzo, per la tua gioia, voglio dirti una cosa: la follia delle multe per chi viola le norme anti-Covid, eccetera, forza, colpisce forza. La follia di queste multe, 400 euro, eccetera, eccetera. Che devi fare? È roba fatta solo per taglieggiare e incassare. Ma che taglieggiare? Però, ma se tu passi se, con roba, rosso ti multano, ti tolgono i pugni della patente, no? Lascia se passi perdere, con rosso. Guarda, lascia perdere che mi è successo rosso, una cosa. Cosa guarda, lascia perdere. Non me ne parlare, non ne voglio parlare. Cosa non è successo? Non ne voglio parlare, non ne voglio parlare. Non ne voglio parlare. Forza, forza, forza. Senti questa, coraggio. COVID. Gli avvocati di Manconi sono pronti a ma difenderti. Ma fare che? Ma quelli forza. Devono difendere a te, devono difendere, dovranno difendere te quando ci sarà la legge che ti condannerà per omofobia dopo ma quello che hai detto sui trans. Sanno tutti qual è il COVID mio in Lombardia. Sì, vabbè, COVID tutti. In Lombardia, senza tetto, multato con 400 euro. Era lontano dal suo domicilio senza motivazione. Beh, qui siamo alla follia. Hanno, beh, ho capito, ma questo ti dico. Senza tetto. Come siamo che hanno multato un tizio a Como? Che si chiama Pasquale Giudice, che è un senza tetto. Beh, che senza molti tetto, conoscono. Anche Gottardo è senza tetto, ad esempio, non va multato, va aiutato. Gottardo vive in albergo da mesi, è tecnicamente un senza tetto, per ora ha il tetto perché questi albergatori gentili, adesso peraltro hanno costretto a chiudere questo albergo. Aspetta, da quando aspetta, mi sei andato via? Ti mando l'audio su di te perché ti attacca sì. Dopo quello che hai detto sui Rom. Ah, sì, certo. Vedi, la differenza tra me e David è che se a me mi paragonano a un Rom, non mi offendo mica. Perché io sono una persona coerente. Davide invece, sotto, i Rom gli fanno schifo. Beh, non posso no. Dare torto a signor Gottardo, no, perché modo. Quando tu lo paragoni a un Rom lo fai detto, per denigrarlo. No, lo fai lo per pensi. Denigrarlo. Tutt'altro, c'è e dunque, anche un'ammirazione ci sta. In me. Io ho detto anzi che c'è. No, una... hai paragonato a un Rom, un no, rigattiere, detto... uno che ricicla, sì, uno sì, che sì, ricicla. Certo. Ho detto che, infatti, e poi ho concluso dicendo: mi stupisco che per il Rom c'è una riprovazione sociale, una critica, una condanna. Beh, sì, rispetto rubano, a Gottardo, sì, no. Gottardo non ha riprovazione sociale per il fatto che da mesi vive a spese di un povero albergatore in un albergo. Questo è il tema vero su cui ci confronteremo. Pino da la Frosinone, però. Prossima. Pino da questo Frosinone. È il tema. Pino da Frosinone, però. Pino da Frosinone è un cretino, ad esempio. No, questo no, va no. Detto. Ma non lo vuoi Pino dire. Da Frosinone è sicuramente un cretino. È un camionista, ammiratore di Sua Eccellenza. Quello che è, non lo so. Quel camionista non c'entra. Diciamo no, è un camionista. Bene, orgoglioso di essere nel camionista. Mio giudizio. E magari ma nel mio qualche figlio del duce da qualche parte quello dai. Che ha lui non è perché è un camionista. Pino è un coglione. Ma guarda, vedi che lo dico senza Parenzo, acrimonia. Mi non ho acrimonia. Sì, dimmi coglione, dimmi. Parenzo, dimmi, tu coglione. Sei prevenuto, tu sei razzista, tu sei sì, prevenuto. Io razzista, disselo contro i fascisti. Di tu, cioè, io non ho mai visto cioè, un ebreo prevenuto contro i fascisti. Cioè noi siamo come? Tu sei prevenuto. Sei razzista con i fascisti, sì. Sei razzista. Come se sei fascista subito si infiamma, si illumina. Ma quindi dico, ma solo in questa trasmissione. No, però fermi tutti un attimo, non riesco neanche ad arrabbiarmi. Solo in questa trasmissione mi viene dato del razzista da un razzista fascista. No, cioè, io sono fascista e il coglione, perché bisogna chiamarlo così, dice: sei nazionalista, non dice che capisco nazionalista. Perché un ebreo ce l'ha con un fascista. Sì, cioè, sei talmente coglione, mi dispiace. Sei talmente. Io non posso neanche chiamarti Pino. Tu sai, nei contratti, quando si firmano i contratti, si dice il locatario. Sì. No, Pino da Frosinone, d'ora in poi il locatario. Ecco, Pino da Frosinone, d'ora in poi il coglione, Parenzo, bisogna dire, come nei contratti. No. Io invece ti ho scoperto, ti ho sgamato, tu sei razzista, dentro di te sei prevenuto. E sei sempre un ammiratore di Sua Eccellenza tu, no? Sei sempre un ammiratore certo, di Sua Eccellenza, sempre. Certo. Da quando sono certo, piccolo certo. Io non ho... Da quando allora eri guardi, piccolo? Adesso ti spiego la mia vita... Sì. ti ho votato, sono esagerato fino adesso. Dimmi che hai votato, allora, che hai votato, dimmi. Allora, aspetta, agli inizi 18 aspetta. Anni sì. Non ho capito, 18 anni? Oh, Fini, hai votato Fini. Fini. Sì, Movimento Sociale, immagino. No. N, si vede che è giovane. Sì, AN. Poi? No, vabbè, Pino, non si sente a cazzo, ciao, senta. Francesco da Savona, avanti tutta, dai. Ciao ragazzi. Dimmi. Niente, volevo dire che questo chiama e dice niente, come alzo. Questo chiama e dice niente. Come questa trasmissione, è il niente, lui giustamente dice niente, ha ragione, niente. È il nulla, in onda. E non capisco perché continua ad andare in onda. Completamente assurda. Esatto, una cosa completamente assurda. Questa trasmissione è il niente. Però se ci pensi, sì. Dimmi. Se tutti si prendano sto coronavirus, sì, finisce magari. In un mese. Ma no, adesso finisce. Aspetta, un mese. Senti cosa però, un mese, tutti hanno gli anticorpi, è finito. Sì, ha ragione. No, ma una mia amica che ha avuto il cancro, sì. Per un cazzo di pelo incarnito tutta la scella. No, ma che ne sai che per i peli incarniti? È stato un mese in ospedale. Ma che per il coronavirus non ha avuto assolutamente niente. Pelo incarnito, che cioè, chi muore è solamente perché è una vita che è più di là che di qua. Diciamolo. Sì, questo è vero. Secondo le statistiche, ma però non ha torto. Lasciamo perdere il pelo incarnito, il cancro, un'altra cosa. Per un pelo incarnito è finito in ospedale per un mese. Ma basterebbe questo, esatto, per dire che è un cretino questa persona? Basterebbe solo però questo. Però non ha torto. Dice facciamolo tutti alla fine. Ma voi. È quello che sta succedendo. È quello che finisce lì. Finisce lì. Senti la teoria. Medici e medici che si confrontano. Arriva Francesco da Savona. Senti, si vuole prendere. Cioè tu praticamente gli stanno suggerendo qualcosa e tu stai prendendo l'aperitivo in macchina praticamente. In macchina, perfettamente. Tre negroni in macchina. Questo, sì, qua sì, in macchina. Questo gli rode il culo, perché avrà 20 anni immagino. Francesco gli rode il culo. 24. A 24 anni gli rode profondamente il culo, che magari non può andare nemmeno a scopare perché ci sono delle restrizioni. Ma ufficiale frigorista che è cagato in macchina. Come, non ho capito, scusa. Ufficiale frigorista. Ufficiale? Rigorista. Lavoro in America. Vabbè, allora? E niente, mi devo essere qua in macchina con i miei amici invece che essere tranquillamente fuori per una cagata, cioè. Cioè tu vorresti fare l'aperitivo come se nulla fosse, diciamo, e l'hai fatto, e probabilmente l'hai fatto ampiamente senza mascherina. Assurdo. A luglio, assurdo, ad agosto, a settembre, cioè sei andato fuori a fare i cazzi tuoi senza nulla. Immagino, dimmi chi è là? Uno dei miei migliori amici. Fai mettere un attimo io. Posso mettere una voce? No, ma dagli il telefono, tanto a voi che cazzo ne frega del virus. Crucio, sì. Siamo in macchina con tre negroni, sì. Savona, zona arancione, sì. E non ci fanno prendere l'aperitivo per sto coronavirus, basta, non ce la faccio più. Io sono il vostro aperitivo. Io ti sono vicino. Il loro aperitivo, ragazzi, vale l'egoismo di questa gente. Cioè tu sei, sono degli untori, secondo, sono stati, no, degli sono untori. Degli egoisti. L'aperitivo, dai, di queste persone non vale la vita dei medici e degli infermieri. Ma siete due cretini. Siete due cretini. Non contagiamo nessuno. È il principio che passa. Senti l'altro, è il principio. Ma siamo in macchina, non contagiamo nessuno. Ci mancano gli aperitivi, anche a me mancano gli aperitivi. Ma che vuol dire? Pensa ai medici e agli infermieri che sono lì a curare le persone. Abbiamo una ragazza, un'amica che ha avuto il cancro, sì. E noi siamo stati rispettosissimi, immunodepressa, non l'abbiamo mai vista, non l'abbiamo mai contagiata né niente. Adesso ha passato tutto e ci prendiamo quattro negroni in macchina, zona arancione, senza rompere il cazzo a nessuno. Sì, ma voi siete tra quelli che avete girato, eccetera, da luglio, agosto, settembre, ottobre. Diciamo la verità, non avete mai messo la mascherina, no, non ve ne è mai fregato un cazzo. No, siamo andati in campeggio in Toscana. Sì, ma l'atteggiamento è questo, a settembre, ottobre, no, finché non è. Voi facevate gli aperitivi senza mascherina, senza nulla, dai, ma è così, ma è normale non che sia. Non facevamo un cazzo, però perché erano tutti liberi, non. Ma nessuno, sì, non è normale, è un atteggiamento egoista. Ciao, Francesco, ciao ragazzi, ciao. Michele da Parma, ragazzi, Michele da Parma. Crucia, Dimmi. Volevo parlare di un pezzo di merda di Spirlì che voleva che doveva ritornare la sanità in Calabria. Calma. Spirlì è un mio amico, presidente della Calabria pro tempore. Presidente della Calabria. Presidente però della Calabria. Non l'hai chiamato omosessuale, dopo che hanno arrestato Tallini, no? Ma cosa vuol dire c'entra? Omosessuale? Non vuol dire niente. Omosessuale, ma contro le ma cazzate. Degli omosessuali? No, ma per dire, lo sto inquadrando. Sto inquadrando il signor Spirlì, un personaggio fuori dal coro, un personaggio molto simpatico. Molto simpatico, ancora non lo possiamo giudicare come presidente della Calabria perché sono passati pochi giorni. Che cazzo vuoi da Spirlì? Che dove no, adi? Io da Spirlì voglio che si permette di a dire che la sanità doveva tornare in mano alla Calabria. E il giorno dopo hanno arrestato Tallini. E beh, che è colpevole, non ho capito. Guarda caso è dello stesso partito. No, ma quello, come mai? Forza Italia. Scusami, Michele, facciamo delle distinzioni. Quel signore dice: lo sai quante persone sono state arrestate e poi sono state assolte? Dunque, calma prima di dire che uno è colpevole. Calma. Ma le lettere di intercettazioni sono fatte così. Mi sono rotto il cazzo di questi ragionamenti. Lei lette le intercettazioni? Sì, un coglione di merda. Quello l'ha arrestato Gratteri, mica e beh, allora che vuol dire? E che cazzo vuol dire? Imbecille, perché i giudici sono infallibili. Ma certo che è un cancro l'Andrangheta, ma figuriamoci, a me lo viene a dire. Cosa c'entra? Se uno ha avuto rapporti con l'Andrangheta è un criminale, va buttata la chiave dopo che lo metti in galera. Non sono come Parenzo. Perché non l'hai chiamato il giorno dopo? Ma che c'entra? Ma mica Spirlì avrebbe detto delle cose formali, aspettiamo la magistratura, eccetera. Che cosa lo chiama a fare, coglione? Ma solo le pagliacciate, ma vai a farti fottere, crusta. Ma che cazzo vuoi da me, imbecille? Che cazzo vuoi? Hai già condannato uno. Un buzzicone di Gottardo, non condanno nessuno io. Sì, hai già condannato uno che non è stato ancora condannato. Primo. Vabbè, secondo, adesso... cosa vuoi da Spirlì? Che c'entra Spirlì? Che cosa c'entra Spirlì? Spirlì che va dicendo che deve tornare alla sanità in Calabria, ma ci sarà un motivo se sono 11 anni che è in commissariata? Quello sicuramente, quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso, che abbiano rubato a destra e manco. L'ho detto io anche ieri qui in trasmissione. Ho elencato una serie di cose folli che succedono in Calabria. Gente che viene pagata, indranghetisti che vengono pagati, e fatture. Sì, ma quello che assurde, voglio dire che non dai, è che succede gente solo che lucra sui farmaci. Sì, ma tu gente che lucra sui farmaci. Tu mi hai rotto i coglioni, capito, Michele? Mi hai ampiamente rotto i coglioni. Ma non mi rompere il cazzo. Sara da Milano, vai Sara, dimmi Sara. Dimmi. Ciao. Dimmi. Allora, io volevo lanciare un messaggio al busta di fave Don Martinengo. Voglio sì, dire, come busta? Busta? Come busta di fave. Busta di fave. Cioè lui, tu lo dici bella Don Martinengo di busta sì, di dai, fave. È ignorante come un cassonetto, che vuoi dirgli? Ma amica mia, è un prete. Cioè lui hai definito busta di fave, va benissimo, per carità, anche potrei per dire per non essere volgare, è stata molto elegante. No, però bella. Sara, bella locuzione. Facciamo Sara. Facciamo una premessa. Bellissima, ieri grazie. Un prete, questo prete che però è un prete, da noi ha detto che le coppie omosessuali sono innaturali, eccetera, eccetera, che forse uno può recuperare, può tornare eterosessuale. Milioni di cittadini non italiani. Ha offeso nessuno, milioni, ha espresso milioni. Le sue opinioni. No, ma allora, io ho mi offeso. Sono sentita offesa, ma certo. Francamente. Cioè, certo. Perché sei lesbica, anche perché, non ho capito. Scusa un attimo. Sei lesbica? Uno, sì, ovviamente. Ma non occorre essere non lesbica. Non è ovviamente, non è che uno per forza no, deve essere ovviamente. Ma non occorre essere lesbica però, se omosessuale. Mi sono sentita per... offesa, è offesa dalle parole modo. Di un prete che dice che non approva le unioni tra omosessuali e che pensa che i gay... Poi ha ritrattato, sono malati, ti sei sentito offeso. Beh, ma che cazzo malato, te ne frega? Cioè, se uno le dice ma malato, che te certo. ne frega di un prete che dice la sua, è la sua opinione sugli omosessuali. Ma non è un'opinione, è un'offesa. Ma... dare del malato a una persona. Scusami, per una sua tu sei lesbica da sempre oppure qualche volta hai preso anche l'uccello? Scusami Sara. Vabbè, questo no, allora io in realtà lo sono da sempre e non penso neanche che si possa tornare indietro come dice quanti anni hai? Quell'altro. Scusami Sara, quanti anni hai? 23. Tu praticamente da sempre sei lesbica. Non hai mai subito preso... delle discriminazioni? Ma sei vergine? Sei vergine? No. Non ma sei ti vergine. Sei mai qualche, sentita qualche, discriminata qualche... in qualche contesto ma da qualche compagna di scuola? Aspetta, 23 faglielo dire a lui. Le lesbiche di oggi sono fatelo dire sono da lei su un piatto d'argento. Fatelo dire da lei. Ma scusa, si tutte è le volte che mi devo sorbire magari tutti i commenti quando giro per strada, non è discriminazione. Ma per strada chi? Ma chi? Con chi? Perché quando esci ma certo, ma è pieno di idioti esattamente come questo prete. Non ho capito perché c'è scritto lesbica in fronte quando giri per strada. No, magari dalla mano alla sua compagna per strada. Esatto, esattamente. Ma che senti? Non sai se due si baciano per strada qualcuno a Milano dice, in particolare. Qualche ascoltatore della Zanzara che dice sì. Oh, e che ti dicono, che ti dicono quando dai la tua manina alla fidanzata? Quanti anni ha la tua fidanzata? Ne ha 26. 26 anni, girate, vi slinguate, magari vi baciate e qualcuno vi dice qualche cosa, siete discriminate? Sì. Ma sì, che cazzo è successo, sarà successo una volta in quanti anni? Qualche coglione che ha detto qualche parola, e allora che cos'è quella? Sì, scusa, posso comunque sentirmi offesa da sta gente ignorante? Che mi dà anche, che dice pure che io sono contro natura, lui che si è votato a un'entità che non avrà mai una famiglia, che non procreerà mai, a me che sono contro natura. Aspetta, Sara, aspetta che torno con te, aspetta. La zanzara. Io sono una stronza, però con dei principi. Francesco da Firenze, che augura la morte al gatto della Barbuto e la manda a fanculo, è semplicemente orgasmico. Francesco, che c'è? Aspetta, che Francesco, madama, aspetta. Francesco, non essere volgare, però. Francesco, dimmi, cioè, fai no, cazzo. Voglio soltanto dire che spero che il gatto della signorina crepi, così che anche lei ha una responsabilità. Vergognati! Bellissimo! Spero che il gatto della signorina Barbuto crepi, in modo tale che poi io posso scrivere su Facebook che lei ha una parte di responsabilità bravissimo, nella morte del suo bravissimo. Gatto. Vai a fare culo, vai a fare in culo, hai capito? Esco da Firenze quel pezzo di merda, quando parla di ristoratori si deve sciacquare la bocca, coglione comunista del cazzo. Allora ragazzi, vi sottopongo alcune frasi. Io penso che, io sai che ieri sera per addormentarmi ho risentito Francesco da Firenze versus Barbuto. Cioè ormai per me diventa, voglio metterlo sul telefonino. Francesco da Firenze versus il gatto della Barbuto è un manifesto politico, è un manifesto politico. Allora ragazzi, come sta il gatto? Chiamiamola per vedere allora come sta il suo meglio, gatto. Starà meglio. Chiamiamola, gatto. Perché lei è responsabile della vita di quel gatto. Chiamiamola, Barbuto. Si è salvata per adesso la gatto, quello che è, insomma. Però ti voglio sottoporre delle cose che ti faranno orrore, delle frasi che ti faranno orrore. Quelle della signora Paola Saulino. Sì, la signora ho visto, caso genovese. No, già cioè visto, lo stupro, violenza nei confronti di una ragazza 18enne che ha partecipato ad un festino a base di droga, eccetera, eccetera. Allora, la signora Saulino, cosa ha detto la signora Paoletta Saulino, più volte ospite in questa disgraziata trasmissione? Ha detto sostanzialmente che le ragazze che prendono parte a questi festini sapevano benissimo a cosa andavano incontro. Stupidissimo. A cosa andavano incontro. Se eri brutta e non eri disposta a concederti, in quei festini non ti ritrovavi. Puoi frequentarli per poi allontanarti successivamente, ti puoi ritrovare per caso, allora una volta capito dove ti trovi, alzi i tacchi e te ne vai. Puoi farlo con consapevolezza per uno o più volte, per magari ti diverte, tutto è lecito. Ma chi va per certi mari, certi pesci trova, appunto. Cioè, sostanzialmente la Saulino dice che chi è andata, questa ragazza credo, che è andata a questi festini ed è stata evidentemente costretta a una violenza, sapeva che andando a questi festini a base di droga si poteva trovare stuprata. Questo dice la signora Saulino. Una morta di fama, come dire, un bel tacere. La violenza non fu mai è da recriminare sempre, ma al netto dei cambiamenti e delle maturazioni inevitabili dai 18 ai 30 anni, se vuoi avere la libertà di passare il tempo con persone che ti fanno fare la bella vita, se vuoi fare sesso liberamente, drogarti e frequentare certi ambienti, devi allo stesso tempo assumere la responsabilità che deriva da questa libertà. Non si può essere adulti a metà, però, signora Saulino, non è che tutte le feste a base di cocaina, eccetera, finiscono con uno stupro. Carità, altrimenti male, sarebbe pieno di stupri. Dici. Sarebbe pieno ma di ha stupri. Detto una è una signora sconosciuta. Che ha detto una stupidaggine, ne dice tante, ma questa in particolare, un bel tacer non fu mai scritto. Guarda, allora eravamo con Sara da Milano, lesbica, 23 anni, che dice di essere ogni tanto insultata per strada, puttanata pazzesca, sarà successo una volta, eccetera. Se la piglia con un prete che liberamente esprime la sua opinione, cioè che non dice sostanzialmente che i gay sono contro natura, ha detto che sono malati e poi si è pentito, ma comunque ha detto che sono malati, eccetera. Si è sentita offesa, a te del prete che cazzo te ne frega, non sei discriminata oggi da lesbica 23enne in Italia con una fidanzata 26enne, dai. Sara, no, allora il punto base è che una persona come un prete che difende l'amore a spada tratta non dovrebbe odiare qualcuno. Ma lui non odia, ha detto che non odia, quel donne ieri sera ha detto che non odia, ha detto che lui anzi ama eccetera, però le sue idee pensa però che si può alimentare a fare quella che si chiama in terapia. Ma ha detto che uno dovrebbe andare dallo psicologo perché non è felice secondo lui, perché secondo lui non è una cosa naturale. Lo mando a fare in culo. Ma sì, ma tu infatti lo puoi mandare a fare in culo, però quello non può essere condannato, come dice Parenzo, non può ricevere una sanzione, non si può stare sotto il giogo. Perché no? Perché non dovrebbe? A voglia. Adesso c'è la dittatura delle lesbiche. Ma nessuna dittatura, ma non c'è nessuna dittatura. C'è la buona educazione. Se io ti dico, scusami Sara, se io ti dico che a me le lesbiche fanno schifo, mi fanno non è vero, però se io te lo dicessi, a me voi lesbiche mi fate schifo, che cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare? Come se io dicessi, sì, ma che so, vado in tribunale perché ti dico tu lesbica mi fai schifo, devo andare in tribunale? Ma sì, che cosa? Ma voi siete in un mondo di pazzi, ma cosa ho offeso? Un mondo nel quale offendere è normale, no, non è un'offesa, è un altro mondo. Scusami Sara, se io ti dico lesbica di merda è un altro discorso. Lesbica di merda è un'offesa, perché può essere un'offesa. Io non mi sentirei offeso se mi dicono cruciani di merda. Ma tu non senti offeso da nulla, lesbica di merda, sei un ladro, lesbica niente. Di merda si sente offesa. Ma uno si dice, a me le lesbiche mi fanno schifo, due che si leccano la figlia mi fanno schifo. Ma no, che opinione schifosa è? Sì, ma che roba è? Non è un'opinione. Vabbè, non allora uno va in tribunale perché dice lesbica, perché ti dice si va in tribunale se uno ti offende. Scusa, però attualmente è un'offesa. Scusami Sara, voi tu e la tua fidanzata usate i vibratori oppure fate con la lingua e basta? No, una mia curiosità. No, ma ci arriverò. Prima o poi. A che cosa, scusa? Esatto. Al vibratore, dici? Cioè tu a 23 anni con la tua fidanzata di 26 non vi siete mai messo un vibratore ancora? No, allora, io non vi siete fatto. Mai messo un vibratore a vicenda, non Aspetta, ho capito. Io l'ho già fatto, però sto cercando di convincere lei. Prima o poi ci arrivo. Che è più grande, dice. Perché non vuole usare il vibratore? Perché dice che due lesbiche non dovrebbero, cioè una lesbica. Non so, ma penso perché non l'abbia mai fatto e quindi non lo so. Cioè per ora non ne abbiamo bisogno. Però vedremo. Praticate l'anilingus anche, sì. Ma che te ne frega a te? No, sono curioso. Loro. Anche lì ci devo arrivare. Spero che lei mi stia sentendo. No, ti prego, fallo Maria Sole, per favore. Maria Sole, diciamo pure il nome, certamente Maria Sole. Esatto. Maria Sole, dovresti farlo, nel senso, in che senso? Dovrebbe leccarti il culo oppure tu dovresti leccare il culo a lei? Sì, esatto. Mamma mia. Cioè, a vicenda, non l'avete mai fatto, tu glielo fai o lei non ho capito. A chi se ne frega alle 19.44 del venerdì sera? Sono curioso. Alle 19.44 del venerdì sera, chi se ne frega di cosa fa la signorina con l'altra signorina, voglio dire. Ma sono curioso di come le giovani di 23, 24, 25, 26 anni vivono il sesso. Sono curioso di questa roba qua, ma sarò quest'ora con la gente. Mi vuoi dire che sono morboso? Vuoi dire che sono morboso? Sei un maniaco, sei un maiale. Sì, no, morboso, sei un maniaco. A te non piacerebbe, per esempio, vedere una scena? No, puoi dire. No, cioè, io pagherei oro. Sì, io pagherei. Lo vedi che ci ha ripensato. Che avete preso il mio e l'avete montato. Io pagherei. Posso dirti che io pagherei per vedere una scena lesbo tra Sara e Maria Sole? Ma tu ormai pagherei per vedere. Anche i tuoi amici oggi è venuto a casa mia, voglio svelarti questo, l'avvocato trucco mi ha detto che sei malato, bisogna curarti, sei completamente malato, è venuto da me, era disperato come il prete. Sei malato, sei monotematico, sei impazzito. Scusami Sara, scusami un attimo, posso dirti una cosa? Ti faresti pagare per vedere per farti vedere da qualcuno mentre lecchi? Francamente sì, cioè ti faresti perché pagare? È libero, sì. No, ho capito. Pure. Tu ti faresti pagare da qualcuno per farti vedere con la tua, mentre lecchi la figlia della tua compagna, diciamo, la tua fidanzata? Sì, te lo dico proprio tranquillamente. E Maria Sole è d'accordo? No, sarebbe lei no, purtroppo lei no. È molto più resta. C'ha pure di 26 me. Anni, questa c'ha 23. Vabbè, comunque, cioè, voglio dire, cioè, non si fa per adesso, non si fa infilare i vibratori dentro la figlia. Vabbè, non si, se le lei, non praticano la Linus, no? E non vuole nemmeno, ma questo lo posso frega. Capire, non vuole nemmeno essere pagata per farsi vedere da qualcuno. Cioè, Sara, tu non avresti nessun problema a farti vedere da qualcuno, cioè a farti proprio dare dei soldi, sostanzialmente a fare una marchetta? No, esatto, no. Ma quanto vorresti, per esempio? Ma che te ne frega? Non lo so, non me lo sono mai chiesto, quindi non lo so. Sara, se potessi l'ospiterei in studio, una grande lesbica, giovane lesbica. Ma perché una grande? Milanese. Ha una sua vita, giovane, le sue cose, lesbica, non è milanese. Una pervertita come te. Ciao Sara, mi raccomando, la prossima volta passami Maria Sole così la convinco, eh. La convinco, la settimana prossima organizza tutto, così convinciamo Maria Sola a praticare, a mettere qualche vibratore, anilingus, cos'è che non fa poi? Spiegami cos'è che non fa. Ma che trasmissione. No, il resto tutto, davvero, non mi posso lamentare. Secondo lei, La lecca bene Maria Sola? Assolutamente sì. Sì, secondo bene, lei, Sara, se uno secondo lecca lei, male, Sara, le voglio chiedere una cosa, lei che è così giovane, poi la salutiamo. Secondo lei, perché l'editore del Sole 24 Ore dovrebbe essere interessato a sapere che la signora Sara con Maria Sole non pratica queste attività? L'editore, io non chiedo il pucchicchia, io chiedo l'editore, che interesse, io voglio proprio fare un appello accorato. Perché? L'editore ha un interesse, certo, come dire, per un interesse cultura. Per cultura, è cultura, un è cultura. Ma lei non dica per cultura, cultura. Venga dietro a me. No, l'editore di questa straordinaria baracca è cultura, che edita giornali importanti di quel colore. È cultura anche questa, è cultura anche questa. Ve la leccate in questo periodo di Covid o no? Cioè, vivete, purtroppo no, perché siamo fuori comune. Quindi niente. Da quanto tempo è che non gliela lecchio? No? O lei non te la lecca? Sarà 2 settimane, 3. 2 settimane. Troppo. Vabbè, facciamo una bella riunione la settimana prossima. Convincila, la Zanzara è un luogo di libertà, di grande libertà. Vabbè, non abbia paura di questa trasmissione, la signora Maria Sole, e soprattutto il vibratore lo usi, le assicuro, non è un tradimento nei confronti dell'essere lesbica. Magari lei ha qualche problema di questo tipo, ci sono delle lesbiche estremiste che pensano che il vibratore sia qualcosa di maschile, dunque non va usato. Io le conosco alcune, ti giuro, purtroppo non vogliono parlare, ma conosco delle lesbiche che sostengono che l'inserimento nella vagina, vabbè, come i puristi della lingua, dei puristi della lingua, però parliamo dei puristi. Sara, ciao. La Zanzara. Allora, prima di chiamare Vittorione Sgarbi, che è un po' di tempo che non lo sentiamo, cos'è che ha detto oggi? Anzi no, ieri, Conte stronzo che guarda nel letto. Fammi sentire prima. Facciamo una intro. Conte stronzo che guarda nel letto perché ha detto che non ci può. Quello che si chiama tecnicamente un promo, naturalmente, in televisione. Un promo, naturalmente. È un po' di tempo che lo tira fuori i format. Ognuno può tentare di difendersi con gli strumenti del buon senso, non con le prediche, non con le raccomandazioni di uno stronzo il quale fa il Presidente del Consiglio e non deve guardare nel mio letto né nel vostro. A Natale dobbiamo già predisporci a passare le festività in modo più sobrio. Ma chi cazzo sei per dirlo bene? Cosa vuol dire sobrietà? Sì, sobrio tu! Che stai scalando il governo in questo modo e buttando soldi per cretinate, dai monopattini alle mille stronzate per cui spendi danari che non hai. Al di là delle valutazioni scientifiche occorre il buon senso, appunto, il buon senso che non è il tuo. Io ho il buon senso, tu no. A te il Covid verrà. Tanto ne hai paura o fingi di averla che ti verrà e ti venga nel buco del culo il Covid. E finisci poi con misurarti su quello che tocca a te, non su quello che devo fare io. Dobbiamo prepararci a un Natale più sobrio, anche se pensiamo che si possa scambiare doni e permettere all'economia di crescere. Ecco, queste cose non le voglio sapere, non mi interessa che tu le dica, ci penso da solo e uno di voi ci pensi senza avere il Premier nel letto. Stai nel letto tuo per i cazzi tuoi, io penso ai miei. A parte che poi te lo dico, chiamiamo Sgarbi. Come andiamo, maestro? Dove sei, caro? Bellissimo. Sono a Castrocelo. Bellissimo. Sono paese vicino ad Arpino. Ottimo, di grande bellezza, e ho visto una parte del borgo abbandonata che vogliono recuperare degli affreschi del XII secolo importantissimi. Mi sembra di capire che a te, diciamo, delle restrizioni sul Covid, giustamente giri per lavoro e non te ne frega un cazzo, diciamo. No, ma soprattutto non voglio essere preso in giro, cioè chi rompe. Vabbè, stai in zona gialla, però, scusami, cioè, stai in provincia di Frosinone. Castrocelo, sì, non è in provincia di Frosinone. Ecco, no, quindi non mi fido di questi. Quando leggo un personaggio pericoloso, benché amico del mio amico Ricolfi, che dice "io il vaccino non lo faccio", sì, diventa il primo Novax, tale Crisanti, Crisanti sì, mi pare che siamo nella confusione totale, cioè non puoi dare solo immagini di sconforto essendo quello che ha fatto tutte quelle cose che dicono. Oltretutto vi faccio l'esempio, sì, no, la cosa di Crisanti è incredibile, Crisanti ti è posso il primo, dire, è il primo Novax, il primo Novax, no, ma no, soprattutto no, lui ha già detto non dite che sono un Novax, assolutamente non è un Novax per niente, non lo dice ma non lo fa, quindi io indicavo le contraddizioni, cioè in un paese come questo cosa vuol dire fare il coprifuoco dalle 22 alle 5, cioè chi esce dopo le 22 Beh, e tanti. Esce alle 23 chi trovi per strada? Cioè perfino a Roma in novembre alle 4 del mattino, alle 3 del mattino non c'è nessuno, quindi sì, è una restrizione sì, irragionevole. Che rompe in cazzo solo a Sgarbi, dall'altro, che esce sempre di notte, tra l'altro. Appunto, è una cosa per ad persona, più grave, cioè io stabilisco che il ristorante Parenzo all'una, sì, alle 13 va bene e alle 20 no. È per forza, ridurre il numero di persone in giro. Vuoi lasciarmi finire? Adesso mi riapro, cioè non è che dopo. Ma bisogna giorni... ridurre il numero di persone in giro, Vittorio, ne abbiamo parlato tante volte. Questo è un tema. È un'idea che viene in mente a te. No, a me non solo. Cambia però la sostanza che le persone in giro, se stanno a 1,10 metri di distanza, non si fanno niente. Allora io non voglio essere preso per il culo, non voglio accettare no, non misure così, di uno che mi dice niente abbraccio e niente baci. Meno gente in giro, ma non è mi abbraccio, abbracci. Ma questa è la teoria tua del lo devi sapere tu. Lo devi sapere anche tu. Anche tu, ma neanche tu sei un medico, neanche tu. La gente va in giro e va a lavorare. Ma certo, ma è ovvio, ma anzi devi ridurre anche le persone che vanno a lavorare, perché c'è lo smart working, c'è un coglione. C'è lo smart, certo. Il contrario di quello che hai detto. Ho capito, ma certo, non tutti sono Vittorio Sgarbi che vanno in giro per i comuni. C'è gente che lavora e chi lavora lavora da casa e fa lo smart working. E poi alle 22 non può fare una passeggiata. Ma purtroppo, ma no, ma la passeggiata la fai, ma c'è di no, mette, perché di fanno la multa. Oh, mamma la multa mia. Ma sì, ho capito, la farai. Cerchi di evitare tu, che la gente vada in giro, Vittorio. Mani, puoi camminare sulle mani, ma puoi camminare anche all'indietro, puoi fare quello cosa che ti pare. Ma io se vi dico una cosa assurda, non la rispetto. No, i baci, ne vogliamo parlare di Conte che dice I che baci, non ci si può. Gli abbracci, se non vuole farli parenti, non li faccio, io li faccio lo stesso. La bacerò io la sua fidanzata. Ma non ti preoccupare, quella se è sicura. È sicura e quindi la bacio io, non ti preoccupare. La cosa sì, che ti dice tu che è sicura. Ma sì, certo, cioè, perché sì, è sicura. Beh, quello sì, cioè, no, ma ieri tu hai appoggiato il COVID nel buco del culo, scusami un attimo, Vittorio, rimango qua, vito fuori con me fino alle 10:20 e voglio vedere chi cazzo ci multa. E devi essere multato. Io non ho capito, ma perché tu veramente pensi che le persone vadano multate, Parenzo? Io non ho capito, le persone che aprono i ristoranti dopo le 22 vanno multati, certo, secondo te? Perché se lo facessero tutti sarebbe il disastro, certo. Ma adesso lo faranno, gli hanno cambiato l'orario. Ma ti pare possibile che apri i ristoranti e tieni chiusi i musei? Una civiltà senza cultura, è una civiltà morta. Ma questo siamo d'accordo, ma per forza. Purtroppo musei, per qualche settimana per sono ma, dei delinquenti. Ma vedi che sta scendendo l'RT, scende l'RT. Allora che aprono anche i musei con queste teste di cazzo. Diciamo qualcosa su Morra, ti prego, dimmi qualcosa ecco, su Morra. Questo sì. Morra, quello della commissione, presenta la commissione antimafia. Io sempre detto, ma quello aveva già fatto altre uscite analoghe. Che uno che ha votato una che sta per morire debba essere responsabile dei suoi errori è cosa veramente degna di dimettersi. C'è questo in Calabria. Sì, questo è giusto, è vero. Peggio che un 'ndranghetista. Perché adesso, è stato eletto senza un solo voto, solo con i voti di Grillo. Dire, però, il cui figlio questo sta per essere rinviato a giudizio. Ma non c'entra il figlio, però, Vittorio, non mettere insieme tutto. Educhi i figli così, come puoi educare i cittadini se tuo figlio, secondo te il figlio di Segni era uno stupratore? Ma il figlio di Cossiga era uno stupratore? Ma non c'entra il padre, ho capito, ma che vuol dire? La politica italiana e ha mandato in Parlamento gente come Morra, ma senza un solo voto. Ma le colpe dei figli non ricadono sui padri e viceversa, però, scusa. Ricadono assaiissimo sui padri. Non vai a vedere se il padre di Tomasi, come non hanno arrestato il padre di Matteo Messina Denaro solo perché era suo padre e suo fratello. Che vuol dire? Ha stuprato a casa sua, il luogo del delitto ancora? È casa sua, la sua villa al mare. Ancora no, è stato solo non è stato Morra condannato, è stato non è stato condannato. Il Parlamento è Morra sì, a casa, a non casa è stato suo condannato. Scusami, non c'entra perché niente. Dici che è peggio di anche Tallini? Perché dici che è peggio che un 'ndranghetista, cioè Morra? No, ho detto che no, non ha nulla il suo rapporto con l'Andrangheta, ma la sua Andrangheta si chiama Grillo. C'è uno che lo manda in Parlamento a prendere 15.000 euro, forse 20.000 euro al mese, grazie al fatto che ha i voti lui che non è in Parlamento. Cioè, tutta l'elezione dei 5 Stelle è un'elezione senza preferenze, che porta quello che è eletto, non essere eletto per sé, ma solo con i voti di Grillo. Tutti lui. Cioè, lui dice, scusami, lui dice tra l'altro che i calabresi avrebbero dovuto sapere che votavano sì. una malata oncologica che poi sarebbe morta. Dunque, tutto il caos sì. della Calabria, lui no, dice. No, purtroppo, adesso lo sappiamo, non volevo tornare mai, su quella cosa, ma, io... è meschino. Ma lui a sua volta è stato eletto con i voti di Grillo, padre di uno statore. No, non è stato votato. Condannato ancora per stupro, no, però, no, per carità, garantista, per carità. Garantista, no, poi... ma non parlo delle ipotesi di reato su cui si basa lui, quando lui attacca questo o quello, Tellini, si basa sì. su ipotesi di reato. Tu votando Grillo, che è un delinquente naturale, a sua volta condannato per omicidio, hai fatto eleggere tra... Quindi è una rete abbastanza complessa, cioè non è colpa mia se Grillo, guidando come un idiota ubriaco, ha fatto morire 3 persone. L'altro giorno, quando mi dicevi che per il culo hai una tecnica migliore, a cosa ti riferivi, scusami? No, perché avete parlato di quella ragazza, adesso qui c'è un prete. Quindi... Ok, spostati un attimo, spostati un secondo. Per il culo no, una tecnica che... migliore, qual è la tecnica migliore? È vicino al prete, non può... Per rendere più elastico il luogo sì. stretto, il culo, sì. che produce e di cui tra l'altro parla in maniera meravigliosa oggi Peregalli, ha fatto un libro Roberto Peregalli sul nudo, che è un libro bellissimo che sì. mi è arrivato oggi, che sto leggendo e vi suggerisco sì. ebbene quella cosa lì potrebbe essere in qualche modo resa più passabile sì. attraverso uno strumento che tipo, non so, bottiglie, capito cosa volevo dire? Ecco, no, mi volevi dire, io ho un'altra tecnica per, diciamo, ecco. per dilatare. Ecco, è... sto dicendotela, sto accennandotela. La tecnica della bottiglia, vabbè, qualsiasi dilatatore allora, qualsiasi dilatatore. Sì, un dilatatore che abbia una funzione tipo un imbuto, tipo, dove è finito? Ma perché è una cosa che è una cosa che usi normalmente tu ogni tanto quando devi... diciamo che nella pratica, quando essa avviene, occorre predisporre la parte, si è perso, un libro grigio, bellissimo, l'ho letto tutto il viaggio. Ecco, il libro che vi suggerisco si chiama Il corpo incantato, Roberto Peregalli. Ecco la marchetta. Anche su questa materia. Ecco la marchettina, poi, ottimo. Marchetta. Ma no, non è ma leggi, occhi idiota. Nessuna marchetta. No, Peregalli è intelligente come è intelligente Stendhal. Ma si sì, ma va benissimo. Non è una marchetta. Testa di cazzo, ignorante, culattone. Ecco perché ho detto la piccola marchetta. Parlate così, voi di buco di culo. Vi dico, c'è un libro che parla di quello. Fa il culo, pezzo di merda. Ha ragione. Ma perché tu. La zanzara. Chi va a trans? Io lo considero un malato chi va a trans, sicuramente. Sessualmente ambiguo. In effetti io non ho mai visto un cane omosessuale, però a dir la verità io non ho neanche mai visto un cane pregare. Il prete che è casto, quindi non tromba, mi deve venire a dire a me se l'uomo può trombare con la donna, il frocio col frocio, la donna con la donna. Ma che cazzo vuoi? Ma un po' nemmeno trombare, mi devi dire a me cosa devo fare. È naturale, è innaturale, ma vai a vedere sul dizionario cosa vuol dire naturale. È naturale tutto ciò che esiste in natura, quindi il culo esiste, il cazzo anche, il cazzo un culo è naturale, logicamente. Quindi puppaci la fava, te e tutta la Chiesa Cattolica. Questi ascoltatori parlano del prete che ieri ha detto da noi delle cose molto forti sugli omosessuali, molto forti, insomma, non è che ne abbiamo sentite di peggio sugli omosessuali, però questo prete ha detto per esempio che possono cose ritornare, da cui prendere le distanze. Si augura che ritornino eterosessuali, sono opinioni. Opinioni violente. La volete finire di mettere a rogo chi... esprime delle opinioni. Avete rotto il cazzo opinioni con i tribunali violente. Della minchia. Opinioni violente. Avete rotto i coglioni. Opinioni violente. Alessandro dalla provincia di Torino. Bisogna dirlo. Opinioni basta violente. Basta tribunali. Basta ciao. Tribunali. Dai, ciao, Alessandro. Dimmi. Ascolta, ciao Cruc. Vaffanculo a Parenzo perché sono incazzato nero. Perché? Che è successo? Dimmi. Che è successo? Allora, io sono in zona rossa. Sì. Ok? Sì. Vaffanculo a Parenzo perché dai, lui calma, ha fatto una lotta per far chiudere le palestre. Io non mi sto allenando. No. non sto ma lavorando, io andavo in palestra, non sto scopando, perché la mia ragazza è al di là, io sono in zona rossa e non posso raggiungerla, non ma mi raggiungi, sto allenando. Fottitene, trova una scusa, raggiungila, fottitene delle regole, piglia 400 euro e strappa la multa dalla zona rossa, c'è la tua fidanzata, vai, è un giustificato motivo, vai, se ti fanno 400 euro di multa, strappi la multa davanti e puoi dire voglio andare a scopare con la mia fidanzata, mandami a fare in culo. No Giuseppe, io ti devo dire una cosa, ma queste cose si devono dire, Valenzo, sì o no? No, non si devono dire. Giuseppe, ascolta, io non potendomi allenare, scopare niente, sai cosa faccio dopo aver ascoltato il demone scimmia e io inizio a farmi le canne dopo 30 anni. Questo non c'è bisogno di sentire il demone scimmia a farsi le canne, né c'è bisogno di farsene perché uno non scopa. Gottardo ha fatto traboccare la goccia, io grazie a Gottardo. Però Alessandro, posso dirti una cosa, dov'è la tua fidanzata? Allora, io non posso dire, però è nella provincia di Cuneo. Sì, ho capito. Tu è nella provincia di Cuneo, benissimo. Allora, io sono a Torino, quindi non posso raggiungerla. Zona rossa, non sto lavorando, non sto allenando, tranquillo, vai con l'appoggio nostro, dopo ti difenderemo. Non ci vuoi fare morire. Allora, aspetta un attimo, fermo che c'è anche la Martani con noi. Daniela, come stai? Daniela? Eccomi, bene. Senti, scusa agli ascoltatori, ecco a voi 20.07, parlano gli svalvolati. Prego, scusami. Sei diventato un disco rotto. Però scusami Daniela, allora il mio consiglio ad Alessandro, degli svalvolati, il mio consiglio ad Alessandro è giusto secondo te, fottitene, vai, scopa con la tua fidanzata, fai quello che devi fare. Assolutamente sì. E strappa i 400 euro, strappa i 400 euro. Prendi questa multa e poi fai ricorso, come ho fatto io. Io ho preso 3 multe e ho fatto ricorso. Secondo voi io ho pagato una multa? Ma assolutamente no. Speriamo che ti pignorino lo stipendio che non hai. Assolutamente, sono tutte anticostituzionali queste multe. Vedrete che succederà, che poi i giudici daranno ragione a noi. Perché guarda, sì. Alessandro, vai, sfonda sta zona rossa e vai, e sfonda pure sfonda la tua fidanzata. Sta buffona. Però posso dirti ma una cosa? Ha ragione lei. Scusa, Alessandro. Che cazzo la te ne frega? Voglio dire, buffona. Se stava in un'altra regione, che cosa avresti fatto? Tu ma per cosa avresti fatto? Che è un problema. È chiaro regione, che dai, è un problema per motivo. Tutti. È chiaro che è un problema. Io ho i miei genitori di un'altra regione, che devo fare? Non li vedo da mesi. E quindi metti che domani i tuoi genitori muoiono e tu. Ma muori, ma la fa culo tu. Ma che ne sai? Ma che devo fare se stanno dall'altra parte? Non posso mica andarci. Ma sai che significa? Per parente facile. Un anno di vita, della nostra vita, ok, impedendoci di avere rapporti ma male sociali, per di tutti, lavorare, testa di calda che non sei testa vuota che non sei cazzo, altro. Perché tu lavori, c'hai i soldi, testa tu vuota. Hai la tua ma cosa casa, vuol dire? Ma ho i miei genitori ma lontani, chi? Mio fratello ma lontano, chi? Ma che ma vuol chi dire? Ma chi se ne frega di mio fratello? Io e mio fratello sono a Roma, ma non tu, lo vedo mai. Perché a te non ti vuole nessuno, la realtà è questa. Perché anche i tuoi genitori ti schifano tutti a te ti schifano, hai appena detto che neanche tuo fratello ti vuole vedere. Tu hai appena detto tu dal lockdown i miei figli hanno perso la socialità della scuola. Io ho perso un sacco di lavoro. Ma non hai perso un cazzo, non hai perso. Come l'altro no? giorno me l'hai detto, avrei perso qualche 10.000 euro no, sui 400.000 che guadagni. Ma dai, quali su. 400, se fossero dai. 400.000 non starei qui a parlare con sta squinternata della Martani. Peraltro. Però aspetta, neanche il fratello la vuole vedere. Neanche il fratello della Martani la vuole vedere. No, chi è Emiliano? Alessandro, ti abbraccio, mi raccomando, no. Viola senza per cruciare il parente è facile perché va a trans. No, beh, questo è un altro discorso. Alessandro, ti posso dire una cosa? Io sono il mio avvocato, tra l'altro ti posso Cruciani, il mio avvocato, quello che mi ha difeso nell'ultima con multa Fedez, che ho preso, sì, Fedez, ha fatto lui il ricorso a Sgarbi, questo ultimo in cui ha denunciato tutti praticamente. Quindi Alessandro, qualsiasi cosa fatti sentite con Cruciani, cioè spostati dalla provincia di Torino a quella di Cuneo, vai a trombare la fidanzata. Ma se ti fanno la multa fammi sapere, fottitene, questo è un taglieggiamento. Se ti fanno la multa per essere andato dalla tua fidanzata, sarebbe taglieggiamento, cioè è una roba ridicola. Ciao Alessà, aspetta. Allora, c'è un aspetto positivo. L'altro giorno la Martani è stata assolta, come sapete, dall'accusa di diffamazione nei confronti di Fedez. Sì. La Ferragni l'ha detto qui per la prima volta. Questo bene. È stata, per, tu lo sai qual era l'epiteto? L'ha detto pure lei, lo ripeto, idiota. Ma lo sai la cosa straordinaria di questa cosa? Che potrebbe servire anche a noi in realtà. È un precedente molto importante questo della Martani. No, è un precedente importantissimo. Cioè, libera anche te da alcune cose. Non fare tanto il coglione, perché libera anche te. Cioè, la parola idiota si può tranquillamente utilizzare secondo la Cassazione. Sì. Quindi posso dire che la Martani è un idiota? Sì, assolutamente, lo puoi dire. Perché non costituisce offesa, ma è da considerarsi espressione del diritto di critica, capito? Grazie Daniela, ci hai portato una grande l'altro giorno ci hai dato una grande notizia. Aspetta, però ti voglio dire questo. Allora, intanto volevo dire a Parenzo, secondo idiota. Lui, se lui mi dice idiota, io adesso vado a correre ai carabinieri a denunciarlo, sarei proprio una cogliona a fare una cosa del idiota. Genere, ok? Cioè, effettivamente l'aggettivo non me ne può fregare di grazie. Meno, hai capito? Però scusa, hai dato per me a valore zero. Ti hanno chiesto 100.000 euro di danni adesso. Idiota. Però, ti volevo dire, è una dire persona questo. Che rileva, fammi sentire. Rivela, aspetta, perché idiota è interessante nel caso della Martani, rivela o denota una sconcertante stupidità. Questa è la definizione. Vabbè, d'accordo, okay, questa perfetto. È la tua idea. Una sconcertante stupidità. La cosa sconcertante però in tutto questo. Adesso ti chiedono i soldi. Fedez abbia perso 3 ricorsi, ok? I Ferragnez, così si nomina, si dicono i Ferragnez. Ascolta questa cosa, no, Cruciani, senti questa cosa. Allora, lui mi denuncia, ok? PM fa archiviazione, loro fanno opposizione, mi danno ragione un'altra volta, loro fanno un'altra opposizione. Allora, sai quanto gli sarà costata tutta sta roba qua? Minimo 10.000 euro, ok? Soldi che avrebbero potuto prendere e dare in beneficenza. Adesso loro mi hanno citato dal punto di vista civile, quindi nel penale hanno perso, però per rompermi con Quanti soldi vogliono? 100.000 euro di risarcimento. Aspetta, che dicono che vogliono dare in beneficenza nel caso in cui io perdessi. Allora io dico, no, tutti questi soldi che tu stai spendendo di avvocati per portarmi in tribunale, ma non li potevi dare direttamente in beneficenza? Così evitavamo tutta questa assurda. Posso dire una cosa? Io conosco Fedez, non sono amico di Fedez, ma insomma lo conosco e lo stimo. Lo stimo perché non posso stimare Fedez, non ho capito. Fedez, assolutamente. No, però questo non vuol dire che approvo ogni cosa che fa. Grazie a te. Perché alcune cose allora, le anche giuste. Allora, posso dirti, facciamo un appello a Fedez. Fedez è un grande cantante, uno dei miei preferiti da mia figlia. Quindi facciamo un appello. Ma non me ne frega un cazzo di questo. Che ritiri questa cosa. Perché sta povera squinternata già c'ha mille problemi. C'ha il fratello che non la vuol vedere. Guarda che lo squinternato sei te. Mi hai detto adesso che c'ho ragione. Certo, hai ragione. Ho detto ritiro. No, posso dirti. Posso dire a Fedez una cosa? Io ti ripeto, credo che se uno ti ha dato dell'idiota, adesso se la cosa è solo così, se ti ha dato dell'idiota, è ridicolo andare a chiedere 100.000 euro di danni. Tu gli hai dette di tutti i colori, su di lei, su il fatto che indossa dei. Il fatto che indossa le pellicce, certo, io sono un animalista, io sono. Ma che cazzo te ne frega? Viva le pellicce, certo. Ma che te ne frega se quelle. Viva le pellicce, ma non hai visto quello che sta succedendo con i focolai che stanno iniziando. Scusami un attimo, posso dirti una cosa? Gli allevamenti di visoni. Posso dirti una cosa? Ma se il vaccino dovesse essere obbligatorio. Se il vaccino dovesse essere obbligatorio, tu scappi dall'Italia. Obbligatorio te non la possono fare assolutamente. Che ne sai? Parenzo deve essere obbligatorio. Dovrebbe essere come quello ma del vaiolo. Dovrebbe esserlo, certo. Ma per quale motivo? Non ho capito. Come fureso obbligatorio, come è obbligatorio, come sono obbligatori alcuni vaccini per i nostri figli. Ma guarda che se mandi i bambini a scuola, se mandi i bambini a scuola, ci sono dei vaccini obbligatori per i bambini. Sciocca, per mandarli a scuola, sei una sciocca. Perché non sei altro. Voglio capire una cosa, se lo impongono tu che fai? Vai via dall'Italia, che fai? Oh, ma se bello impongono sarebbe. Io non so che cosa può succedere. Già ci stiamo mettendo d'accordo con alcuni. Con chi? Chiaramente non lo posso dire quello che vogliamo fare. Tu e il cane. L'obbligatorietà se la devono ficcare in quel posto. Non esiste nel proprio. Culo. Sì, aspetta, ferma un attimo, Maurizio. Esatto. Maurizio, ci sei? Come ciao, stai? Ciao Giuseppe, buonasera. Hai cacciato oggi? No, ma che cacci? Noi siamo tutti maestro. Come? Siamo in zona maestro noi. Come? Ah, perché siete zona rossa. Però vabbè, Livorno. Finalmente gli animali potranno finalmente vivere la vita tranquilla senza essere sparati da sti coglioni che vanno a divertirsi col fucile in mano. Cioè, che sarebbe intanto ieri sera un ragazzo di 20 anni ha attraversato un cinghiale e coma a Grosseto. Allora state ammazzate dai vostri dalle vostre pallottole vaganti. Non rompete il cazzo, Giuseppe, scusa, ma chi è? Avete rotto le palle, sembrate, non lo so, sembrate dei santi, siete dei poveracci, voi ammazzate ogni anno almeno 100 persone. Aspetta, fermati, Maurizio, scusami, come chi è? Daniela Martani, animalista. Un'altra volta la Martani. Sì. Che, ma come si fa? Ma questa è acida dalla mattina alla sera, avete privato orgasmi, ci vorrebbe il punto G. Perché non ti vai, non ti trovi un altro interesse? Guarda, allora adesso in questo momento approfitta della però scusa rotta, la teoria, non puoi fare nient'altro, ecco, fai un altro hobby, fai un hobby, che ne so, però scusami, la teoria di Candide che tu, ma guarda, scusa, io faccio due hobby nella vita, la figa, ho 70 anni, la figa, la ho caccia. Fatto due cose sole nella vita, caccia e figa, cioè, non ho fatto altro. Infatti, sempre no, altro, no, io sto proprio bene. A un livello di coscienza, sto proprio di, bene. Di evoluzione pari a zero. Sei proprio come scusami, Candidi. Candidi, secondo te la Martani è molto acida? L'hai detto prima perché non ha orgasmo. Ma come si chiama di nome? Daniela, scusami. Te vivi una dimensione dove ti sta un po' più rilassata da come ti sento parlare. Come la faresti? Come la faresti rilassare tu? Come la faresti? Ma lei è priva d'orgasmo, lei chiacchiera perché gli manca l'orgasmo, gli manca lo squirting e il punto G. Siccome lei prova un orgasmetto solo, perché te ti manca, allora ti difendi sugli animali, te la tua difesa sono l'anticaccia o gli animali. Cerca di trovare te stessa, perché te sei priva di orgasmo, stai male, soffri dalla mattina alla sera, vieni da me due giorni, vediamo e dormi tranquilla, vai insomma in paradiso, te vuoi sul destapano. Guarda, piuttosto andare con uno come te mi farai suora, piuttosto, guarda, sì, ti giuro, ti farmi toccare anche con un mignolo. Ti fai cucire la figa piuttosto che farmi toccare, ma con un mignolo da bella uno come te. Sei veramente, a me piace parlare con le persone, a com'è me piace che, interloquire com'è che con la faresti, scusami, com'è che gli faresti avere un orgasmo, Candida, a modo tuo, diciamo, no? Ascoltami, ma lei mi sa dire una cosa da momento tanto intelligente, sempre in televisione, lo sa perché io non ho avuto mai voluto venire in televisione? Perché sarei stato un tipo, sono stato al Maurizio Stanzoncione nel 2001, non frega a niente, uomini e donne, allora, sono stato dalla Russo a parlare di sesso, questa io viene sempre in diretta con questi animali, ma gli animali, bene o male, sono nati per essere ammazzati, per mangiare e per nutrirsi di tutto il popolo del mondo. Finalmente, Martani. Ma che rompe oglioni. Ma dove l'hai letto che gli animali sono stati ammazzati? Ma come dove l'ho letto? Ma da che mondo è mondo la caccia è sempre esistita, tesoro? Ma da che mondo è mondo che? Ma che stai a dire? Ma da che mondo dicendo? è mondo? Sei un ignorante, ogni volta che apri bocca purtroppo non ti mostri, capito? Ma te sei tanto intelligente, ma chi hai studiato? Ma te sei studiato a Oxford? Ai tempi dei cavernicoli. No, comunque Candidi ha inquadrato una cosa: la mancanza di orgasmi crea ogni tanto degli scompensi. Ma si vede da lontano, lei prova un orgasmetto clitoridale e basta. Ma te lo dico io. Magari quello anale perché c'è un bel culo, visto io. Allora, vabbè, vediamo, una domanda a lei. Mi dici quanti tipi di orgasmo c'ha la donna, diglielo. Ma che cazzo te ne frega a te, ma non te lo dico, no, i tipi, voglio sapere i tipi, non quanti ne raggiungi. Ma parlare con te di perché sei ignorante, non le sai, lo vedi sei ingenua. Io lo dico, Cruciani, io lo dico, l'orgasmo mentale, cosa che tu non potrai mai far provare a nessuna donna. No, l'orgasmo mentale. Fermi tutti, ciao. La Zanzara. Ma per quale cazzo di motivo la gente continua a chiamare e si rivolge a Parenzo con l'appellativo di dottore? Ma dottore di cose, neanche del buco del culo. Non è laureato, dottore sono io, sono altri dottori. Vergogna. Prima di Emiliano da Bologna, Mauro dall'Aquila, Federico da Bologna. e Andrea da Lecce. Io voglio ancora una volta stimolare l'ascoltatore che ha chiamato prima dalla provincia di Torino ad andare a trovare la sua fidanzata, che penso si trovi in provincia di Cura, almeno così ci ha detto, e fottendosene della zona rossa e dell'impedimento. No, no, no, istigare persone a commettere un'infrazione. No, assolutamente. Bravo. Non, bravo. È, non, è, no, non è per fare un assembramento. Non è per fare un assembramento. Istighi comunque a violare. No, una non è norma, per fare un assembramento in 140 persone. E dico che uno deve avere il coraggio di affrontare certe cose e deve, quando ci sono dei provvedimenti assurdi, lo diceva giustamente Sgarbi prima, quando ci sono delle cose assurde, impensabili, quello c'ha la fidanzata in provincia di Cuneo e se si sposta gli fanno un culo così se lo beccano, capito? Ma ti pare normale a te che quello c'ha la fidanzata, vuole andare a scopare in provincia di Cuneo e non ci può andare perché il c'è problema, il DPCM? Il problema, certo, perché c'è una cosa che si chiama pandemia, ma il problema non è lui, il problema sei tu. Però sei tu che metti anche tu in discussione e istighi le persone a commettere infrazioni. Emiliano da Bologna, allora, vai Emiliano, vai, vai Emiliano. Ma secondo me, scusami, però è peggio delle persone che cercano di tenere nascoste che persone che istigano. Uno dice una propria opinione, non istiga niente. Ma come al solito quello vuole fare, quello vuole fare, ma io non sto istigando nessuno, sto dicendo semplicemente una cosa, quello vuole andare, non vi pare una cosa assurda che uno in provincia di Torino non possa andare in provincia di Cuneo a trovare la fidanzata? Che cazzo è? Ma che cazzo di contagio ci può essere in questo caso? Mi sembra assurdo che uno deve tenere nascosto, cioè non devi dire per non incitare, oddio che poi no, è peggio tenere nascosto. Voglio tenere nascosto. Che vuoi dire? Scusa, spiegami, che vuoi dire? Comunque volevo chiedere a Parenzio, volevo chiedere soltanto al signor Parenzio, scusi, ma secondo lui, al di là che non è giusto la violenza nei protesti, nessuna cosa, quello siamo d'accordo, ma andare a fare una protesta in piazza con i palloncini e dopo che uno ha dato il suo dissenso, no? Cioè, a cosa è servito? Cioè, sicuramente uno non deve spaccare, non deve fare, non deve, però cosa serve? Non ho capito, Emiliano. Cosa vuoi dire? Non ho capito. Dico, le persone che vanno a protestare per i vari dissensi in piazza, che poi oltretutto adesso non vietano anche quello, quindi è una dittatura pazzesca. La cioè, secondo te siamo in dittatura? Peggio. Cioè, secondo te siamo in dittatura? Sì, sicuramente sì. Che tipo di dittatura? Le 22 a casa, ma uno anche se chiudi i locali, e tu che non è giusto perché li chiudi i supermercati, gli autobus, fai attrezzargli i supermercati a fare la sport. Ma allora, da qualche parte uno però deve andare a prendere allora da mangiare. Si attrezzano come hanno fatto i locali che hanno speso soldi per attrezzare e vanno a. Cioè, secondo fare te, però, torniamo. Secondo te, siamo in dittatura? Questo è il punto. Assolutamente sì. Come una volta questo con è colpa tua, Mussolini, Cruciani. Con il coso. È no, colpa tua, ecco, se la gente pensa queste cose. Se dici le cose, non va bene dici? Perché i comunisti dicono devi stare tutto nascosto. Dobbiamo fare le cose di nascosto senza alzare polveroni. Capito? Non devi dire niente, non devi spiegare niente, ma se vai a protestare, giusto? E ho detto il mio dissenso, ma il signor Conte e i vari personaggi lo stipendio lo prendono lo stesso, cosa gliene frega il giorno dopo? Cioè, cosa gli è cambiato? Ma cosa vuol dire? Non è che lo fanno anche... perché. Andrea D'Asti, andiamo avanti. Andrea D'Asti, vai, Andrea, dimmi. Sì, pronto, ciao. Ah, la vignetta, c'è una vignetta di Natangelo, no? Una vignetta di Natangelo oggi, la Ravetto lascia Forza Italia, lamento di Silvio, peccato, era brava la Ravetto, cioè Berlusconi sapeva fare una cosa con la lingua che, eccetera, eccetera. Indecente. Sul fatto, sì, però ragazzi, una vignetta. Porcheria, no, è una porcheria. Dimmi Andrea, dimmi. Si può dire che è una porcheria, non fa ridere. Dimmi Andrea, dimmi. A te fa ridere sta roba? Non mi fa ridere, non me ne frega un cazzo, basta, però non è, come dire, è una, cioè. Poi tra l'altro, solidarietà non, non fa nemmeno ridere, tra l'altro. Cioè uno può criticare politicamente la Ravetto. Può fare anche una critica corrosiva, diciamo. Ma certo, può fare... ma questa non è una critica, questa è una porcheria. Cioè, si può dire che è una porcheria? È una porcheria sessista. Proprio sessista. No, io volevo parlare della situazione che c'è adesso, di questo grande reset di cui si sente parlare. L'altra volta avete parlato del discorso che ha fatto Radio Maria. Allora? E l'avete un po' etichettato come pazzo, però qualche giorno prima era uscito anche sui giornali, insomma. C'è stata una lettera da parte del monsignor Viganò che ha scritto direttamente a Trump. Sì, allora? E allora? Non è, evidentemente se non è l'unico pazzo questo di Radio Maria che ha parlato. E chi lo dice che è l'unico pazzo a pensare che c'è Satana, eccetera, appunto, e ci sono il nuovo ordine mondiale che vuole si è inventato la pandemia per sottometterci, mica non è l'unico. So se c'è, non so se, appunto, però io vorrei che se ne parlasse un po' di più di questa cosa. Perché ma già ne parliamo abbastanza. Diego da Monza, perché tu credi al nuovo ordine mondiale? Io dico che la situazione che c'è adesso non è normale, l'informazione cioè, non è normale. Tu pensi che ci siano delle grandi potenze finanziarie che vogliono imporci una dittatura? Scusami, che vuol dire non lo so, lo sai o non lo sai? Cioè se ci credi o non ci credi, non lo so, ti vorresti informare, vai sull'internet, Diego da Monza, vai. Diego da Monza, vai sull'internet. Volevo dire solo una cosa su quello che ha detto ieri il prete sui gli omosessuali così. Allora, secondo me un prete può dire solo quello, cioè nel senso la sua religione gli impone di dire non quello. È vero, non il Papa posso... non dice. Ma che dice? Il Papa dice esattamente il contrario. No, il Papa non dice il contrario. Non dice che può andare guarda che il Papa ha detto delle cose importantissime, come no, anche a favore delle unioni tra gli omosessuali. Non penso che il Papa dica che sia giusto mettersi l'uno con l'altro queste cose. No, ma non entra nel merito di quello, ma il Papa non credo che il Papa approvi la sodomia. Non credo che il Papa approvi la sodomia. Il Papa l'altro giorno si possono voler omosessuali, hai detto sulla possono volersi bene. Punto, non possono fare altre cose. Cioè non, devono essere casti, devono essere casti. Una religione come il cristianesimo dice quello. Ma anche nell'ebraismo è così, dai, forza. Fermo là. La zanzara. Certo che se mi innamoro. Cioè voi non è che smetto di succhiare il cazzo, ma lo succhio con amore. Cioè è questo il fatto. Per me essere troia è poesia, per me essere troia è poesia. Quindi se questa libertà viene intaccata, la libertà di essere troia in un determinato momento, con un determinato tipo di persona, mi lede. Ma buon senso è chiaro, non ci si abbraccia, non ci si bacia, non si fanno le orge. Le orge di Cacciari, non si fanno le orge, signor Cacciari, non si fanno le orge. Scusi Cacciari, ma perché lei pensa sempre alle orge, dico, perché pensa sempre alle orge? I decreti che parlano di cose assurde, cose incredibili, ma io voglio dire, ma non avete mai letto la critica della ragion pura? L'avete mai letta? Ma che c'entra voi? Con i decreti, lo diceva anche Kant, la legge morale dentro di me, il cielo stellato sopra di me, dai, ma scusi, allora... Voglio dire, ma di cosa stiamo parlando? Ma mi invitate, mi fate delle domande idiote. Sì, ma perché lei dice idiote. Che lei pensa sempre alle orge? Non ma è no, che... non si è il presidente Conte che dice che fa una conferenza stampa per dire delle cose idiote. Ma come si fa a fare una conferenza stampa per dire non ci si può baciare? Ma è ovvio che non ci si può baciare con degli estranei. Ma allora cosa facciamo? Regoliamo tutto? Allora dice, ma fare la pipì, ognuno deve tenersi il proprio pisellino. È evidente che se uno va a fare la pipì si tiene il proprio e lei Cruciani si tiene il suo. Ma di cosa parliamo? Ma come si fa a entrare nel merito della fede? Lo dice meno male, Hegel diceva una cosa molto semplice: la notte in cui tutte le vacche sono nere. Ma lo avete letto oppure no? No, sapete che cos'è l'Aufhebung? L'Aufhebung, lo sapete o no? Grazie. Allora, posso dire una cosa, ragazzi? Ci sono diversi tribunali in Germania. Vedi come la cosa poi è più complessa di quella che vogliono lasciarci credere. Cioè, che hanno abolito l'uso delle mascherine nei locali tipo scuola, tipo i posti di lavoro, dove io, per esempio, qua giri, se ti vedono senza mascherina, dici, certo. Oddio, sei senza mascherina, perché mettiti la mascherina. Rispetto degli altri, in Germania, dei tribunali hanno deciso che anche nei posti di lavoro, nei posti di lavoro e a scuola, la mascherina non si mette perché è dannoso metterla, è dannoso per la salute metterla, ma quanto certo, tempo, eccetera, certo. Eccetera. Ci sono dei tribunali che hanno che io hanno... vedo alle tue spalle che c'è il deserto, non c'è nessuno lì eppure se non lo metto mi fanno un culo così, certo, dai. Devi metterla per rispetto di Barisoni e per rispetto Lorenzo di tutti gli altri Dabbai, che sono lì. Sì, Barisoni rompe i coglioni con sta mascherina ogni volta, mettiti la mascherina, responsabile della sicurezza, sono vice direttore delle persone, non mi rompete i coglioni, no, Lorenzo Dabbai, dai. Ciao. Giuseppe, David, buonasera. No, volevo fare un piccolo intervento sulla pratica del deep throat. Sì, che, deep throat, sì, che, deep throat, sì. Gola profonda, sì. Esatto. Cioè io Sgarbi mi dice Barisoni se la deve mettere nel culo la mascherina, giustamente. Ma per quale motivo? Perché Barisoni, ogni volta che uno mi perché. Vede in mezzo alla redazione senza nulla, senza mettiti la mascherina, ma cazzo, non c'è nessuno qui intorno. Ma non c'è che cazzo altri, di mascherina mi metto. Ma non c'è altri. Nessuno qui intorno, porca ma puttana. Ma c'è Barisoni per rispetto anche solo di Barisoni, ma scusami. Ma lo vedo a 3 metri, non rompere il cazzo. E dei tecnici, delle persone che lì lavorano, dei tuoi autori, dei tuoi registi. No, ma volevo dire, come, cioè, la mascherina, vogliamo parlare di come la mascherina ispiri certe fantasie di quella profonda. Sì, perché... la mascherina, perché tu dici fai un buco nella mascherina, ci infili il pisello. Anche senza fare il buco. Cioè tu sei appassionato di gola profonda, diciamo la verità. Pompino con l'ingozzamento, diciamo, col famoso ingozzamento. Esatto. Detto anche strangolone o lo strangolone. No, è una pratica che le donne apprezzano, devo dire la verità. Le donne apprezzano molto. Almeno io, quelle che conosco apprezzano molto, quelle che ho conosciuto apprezzano molto, diciamo, prenderlo tutto intero quando ci si riesce, per l'intero, arrivare fino in fondo, diciamo. No? Fino alla base, esatto, fin dove si può, c'è qualcuno che non c'è, cioè, no, in qualche caso non ci riesci con i piselli particolarmente dotati, non è il caso tuo, lo capisco. Con i piselli di grosso calibro non riesci. Tutto questo. Magari riesci con una bocca particolarmente voglio ampia. Voglio chiedere, tutto questo come è compatibile, ad esempio, con un gruppo editoriale che la domenica pubblica l'inserto culturale Ma del è sole. Cultura questo? Aiutami, o no? Il deep throat, la gola profonda, a parte che è il titolo di un meraviglioso film degli anni d'oro del porno, dei primi anni del porno. Ma la gola profonda, il pompino con la gola profonda è cultura, ragazzi, è cultura. Ciao Lore, ciao. Allora, giusto appunto, abbiamo collegato un personaggio che scopriamo per la prima volta. Trattasi di un trentenne, da tre anni fa il gigolo. Si chiama Nathan. E dico sì, ti giuro, Nathan. Nathan gigolo. Ma come sarebbe? Mio figlio piccolo si chiama, il primo maschio si chiama. Ma no, io vado via, ma com'è possibile? L'hai fatto apposta, sei uno stronzo. No, l'ho fatto apposta, ci ho pensato adesso, in questo momento ci ho pensato. Nathan Gigolò, ciao Nathan. Ciao, cambi nome per piacere. No, ma perché? Perché mio figlio si chiama Nathan. Lui fa tutto, perché tu non vorresti che tuo figlio facesse Gigolò, non lo capisco. Posso dirti la verità? No. Perché? Ti posso dire la verità? Sì. Non ti posso dire la verità, mi farebbe grande dolore. Se a un certo punto ti dicesse, no, faccio Gigolò, deciso di fare gigolo. No, mi verrebbe un coccolone. No. Cioè, ma dai, non è mi verrebbe un coccolone. Tra gay e gigolo, cosa ti darebbe più fastidio? Ma no, gay cosa c'entra? Gay siamo un'altra persona, un sì, altro però maschio. Hai detto che per te sarebbe comunque un colpo. Ma assolutamente, gay che c'entra? Ma gigolo, ragazzi. Che ma gigolo? Nathan, vedi, pregiudizi che apparenzo. Ma non chiamalo Nathan, chiamalo signor gigolo, no, perché Nathan, altrimenti mi viene un colpo al cuore. Ma perché? Ma lo stai insultando indirettamente? Non lo sto insultando in alcun modo. Dico semplicemente che siccome mi ricorda mio figlio e mi viene un colpo al cuore. Scusami Nathan, allora tu sei psicologo delle donne, sverginatore, diciamo la verità, posso riadurre? Anche mi occupo di entrambe le cose. Cioè, perché per essere gigolò bisogna essere anche un po' degli psicologi, diciamo, per farle godere bene. Fondamentalmente mi occupo appunto di spogliare la mente di una donna, di entrarci nel fare l'amore con la sua mente prima. Questo è fondamentale. Operi soprattutto a Bari, diciamo la verità. No. Sono di solito centro-nord, sud, centro-nord, poco, sì. Centro-nord. No, ma dove abiti, scusa, fisicamente? Io a Roma. Allora, Roma, non parliamo di soldi, ma la tua tariffa in generale, non parliamo non me ne frega niente, ormai abbiamo parlato più volte di ciò. Io non lavoro ad ora, semplicemente... Una media, quant'è? Allora, che siano 2, 3, 4, 5 ore, intorno ai 500 più le spese. Se superiamo le 5 ore, sì, dipende, passiamo una giornata intera con la notte o un weekend, cambia tutto, ci va a salire. Nathan è uno sverginatore esperto. Il signor gigolò è piangere. È caduto Nathan. Mamma mia. Incredibile. Giovanni da Milano, dai. Giovanni, peraltro Nathan è un nome ebraico meraviglioso che significa dono di Dio. Prima sentivo una ragazza lesbica che si lamentava del prete. Ma che ne sai? Ma figurati. Del prete che giudicava le lesbiche. Ma vaffanculo, si tratta di pura politica estera. Ma che i preti si facessero i fattacci loro, perché di fatti ne hanno assai da discutere. E poi la cosa più importante era leccata di figa, ma italiani piace. Ma quello a tutti piace, non è che piace. Ma è giusto, bisogna difenderla. Ma chi è che l'attacca? Non è sotto attacco. Nessun complotto, non niente. C'è l'attacco, nessuno di figa, sta dicendo nulla, nessuno, niente. Ciao Giovanni. Nata, non è che per caso tu sei di religione ebraica, no? No, no, no. Non sei di religione ebraica? No, no, no, no. Assolutamente. No, no. Meno male. Però comunque ti chiami Nata. Assolutamente, ecco, lo diciamo, assolutamente. Scusami, Nata, allora, tu, io ti ho definito sverginatore esperto. Tu adesso mi devi raccontare due episodi. Che sono degli episodi centrali, perché mi era già qualcuno me lo ha accennato. E sì. L'episodio più clamoroso è quello della madre e della figlia. Raccontami allora, questo. Sì, c'è un episodio in cui appunto mi chiama la madre per all'inizio pensavo fosse per lei, poi dopo un po' mi racconta della vita di sua figlia, che appunto voleva che sverginassi sua figlia, insomma. Cioè la madre ti ha chiamato per sverginare la figlia? Certo, sì, mi ha chiamato per sverginare la figlia. Perché? Ma era fidanzata la figlia, non riusciva? Quanti anni aveva la figlia? Allora, la figlia aveva intorno ai 20 anni, però veniva da una relazione un po' problematica, non riuscivano a fare sesso, insomma, sesso sì. Vero e proprio non riuscivano a fare. E tu l'hai sbloccata la figlia? Allora, io la figlia sì, l'ho sbloccata, tutto è tutto stato bene. Complicato? No, no, assolutamente, era una ragazza molto bella, aveva solo bisogno dei giusti input, delle giuste... Incredibile, delle giuste, cioè la madre ti ha chiamato, cioè mi puoi confermare questa cosa qua, Anza, due punti, sì, sì, no, Nata Gigolò... Ma chi se ne frega? Una madre mi ha chiamato per sverginare la figlia, possiamo dirlo tranquillamente. Ma sì, non... sì, mi ha chiamato per sua figlia, poi c'è stato un... Che è successo dopo? Un po' di programma perché... appunto finito il tutto, la figlia va via e rimango con lei appunto per doveva saldare e niente, non te la porto troppo alla lunga, iniziamo a chiacchierare così con la poi ha voluto sapere i dettagli espliciti del rapporto con la figlia e ti lascio immaginare, sì, siamo andati a letto alla fine. Ma ha pagato pure lei oppure in questo caso allora, è gratis? Ti spiego, lei mi ha chiesto cosa ti devo, io non me la sono sentita di chiederle niente perché è stata una cosa spontanea, però lei è stata brava, mi ha dato la mancia, diciamo così. Ti ha dato una mancetta in più, diciamo, ti ha aggiunto qualche cosa. Ti ha aggiunto a mo' di mancia, dai. Senti, ma altri cioè, perché le donne, cioè quante donne svergini, diciamo, all'anno? Hai fatto un calcolo, cioè, allora, da 3 anni, più o meno? Una quindicina, 15, una 20, no, 20 anche. E poi come fai a essere sicuro che sono vergini? Cioè, te lo dicono così, magari per eccitarsi, per venire così? Allora, magari... guarda, ti dico, in tanti casi lo vedi, lo percepisci, anche quando ci parli con la ragazza che la vedi insicura, un po' inibita e appunto devi essere bravo a sbloccarla, ma a sbloccarla prima mentalmente che fisicamente. Vabbè, quello sicuramente. Altri ingaggi che hai avuto sempre nel campo dello sverginamento, per esempio? Allora, mi dicono di una ragazza di 19 anni, bellissima, com'è possibile? Allora, sì, è capitato che una ragazza di 19 anni doveva compirli, neanche li aveva, mi chiama per essere sverginata perché voleva sentirsi a suo agio poi nel rapporto col suo fidanzato, più disinibita e quant'altro. E cioè voleva farsi trovare addirittura vergine dal fidanzato? Non voleva farsi trovare vergine. No, sì, ho capito, non voleva farsi trovare vergine. Sì, sì, voleva farsi trovare pronta, essere più, ritenersi all'altezza perché era bellissima, quindi... E che è successo dopo? Che è successo dopo? Allora, è successo che niente, con lei tutto a posto, poi poco prima di andarcene è rientrata sua sorella molto più grande e così ti vedi un estraneo in casa, inizi a parlarci del più e del meno. Vabbè, ti sei scopato pure la sorella? Non mi dilungo troppo, è stato inevitabile perché si era creata quella bella intesa mentale. Sì, ma capito, ma quanto hanno pagato queste due sorelle alla fine? Allora, anche in questo caso, ti ripeto, non... Hai fatto non era tariffa fissa solo per una, diciamo, sì, no? Non era una cosa organizzata, quindi... Io voglio concludere con Nathan che ci ha regalato queste perle assolute di vita reale, caro Nathan, il signor Gigolò. Allora, la massima che si può dire è questo, diciamo, la regola. Secondo te tutti i mariti dovrebbero vedere la propria moglie scopata? È una fantasia che molti hanno, però molti non l'accettano. Ma molti sì. Ma molti chi? Di cosa per superare la questione della gelosia e del tradimento bisognerebbe fare così. Secondo me sì. Cioè, secondo me sì. Cioè, uno supera gelosia e tradimento. Ma deve superare? Se tu sei geloso. Ma deve superare, scusa. Ma ho capito. Sì, l'avevi scopato un paio di volte, non sei più geloso. È una cosa normale essere gelosi. Per altri episodi torneremo con Nathan. Intanto, Italia con Nathan. Nathan. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8, lo dica a voce alta.